siamo invece al telefono con una compagna del centro Donna Lisa. Buongiorno. Buongiorno. Ci senti? Sì, sì, ti sento. Il mio telefono è un po' scarico, però va bene, ti sento. Tanto ok, penso che, allora sì. Cercheremo di essere, insomma, stringate, ma di far sì. venire fuori i contenuti. Va bene, va bene. Allora, innanzitutto vorremmo che ci parlassi veramente in maniera molto stringata dell'attività quotidiana dei centri certo. antiviolenza. Sì, no, è importante fare una sintesi proprio di quello sì, che siamo. Sì, esatto. Perché se ne deduce poi anche perché ci andiamo, perché andiamo, perché abbiamo firmato e perché abbiamo firmato con una posizione individuale nel nostro centro, insomma. Allora, prima il nostro è un centro donna. Sì. Che tra le varie attività, la più impegnativa, anche la più importante, è l'antiviolenza. Però il nostro non è un centro antiviolenza e basta, è un centro dove vogliamo che le donne si rivolgano a noi con, scusa l'italiano, va benissimo, si rivolgano a noi non solo nei momenti in cui hanno dei problemi, delle preoccupazioni, non solo per dolore, insomma, ecco, ma anche proprio come riferimento e come, quindi facciamo anche attività di tipo anche ludico, diciamo, per esempio, ma comunque di vario tipo, per esempio ginnastica posturale, altre cose, cioè un punto di riferimento, quindi in qualche modo anche un modello come linea, insomma, di comportamento, che è un po' diverso dal centro antiviolenza, che è più circoscritto. È importante perché noi facciamo politica d'ampio spettro, quindi è chiaro che di conseguenza ogni tipo di azioni e di cose che facciamo, ci facciamo un'analisi ben precisa. Esatto, allora partiamo. Sono stata abbastanza chiara. Chiarissima. Nella sintesi. Okay. Appunto per questo, leggendo l'appello e un po' le contraddizioni di questa chiamata alla mobilitazione del 13, vorrei un po' che tu ci spiegassi il perché e qual è un po' l'atteggiamento col quale affronterete la manifestazione. Certo, allora guarda, noi è un appello a cui abbiamo dato l'adesione, però in realtà non è una nostra iniziativa, quindi è chiaro che rispetto a questo abbiamo delle considerazioni da fare, che sono: prima, andarci è importante perché è un'opportunità che come donne abbiamo la possibilità in piazza di esprimere la nostra posizione rispetto anche all'attenzione, il problema che rispetto alle donne una certa parte della società ha dato e noi vorremmo dare. Cioè, no, per noi andare in piazza è importante per esprimere i nostri bisogni, le nostre necessità e quindi l'attenzione su problemi che ci riguardano veramente. E qui l'elenco sarebbe infinito: la tarsia, il problema, la tarsia che è una delle battaglie che abbiamo fatto, ma comunque il problema della salute, il problema del lavoro. Mi senti? Sì, sì, ti sto ascoltando. Tra l'altro, scusami se posso interromperti, cioè sì. L'appello firmato da queste donne o comunque scritto da queste donne è strumentale un po' a questa campagna anti-berlusconiana, ma non si fa alcun riferimento alle lotte che le donne quotidianamente portano avanti contro la tarsia, anzi diciamo che visibilità. Dimmi. Sì, sì, hai centrato il punto. Ecco, il punto è questo. Ci sono varie cose che non è che non approviamo, ma che sostanzialmente diventano, come hai detto te, siccome un po' strumentale, estremamente secondarie, sono quelle che ci hanno creato un po' un atteggiamento in qualche modo un pochino più critico rispetto all'appello. A noi, come ho detto in partenza, è un'opportunità per andare in piazza, ma anche per esprimere questo. Non vogliamo essere strumentalizzate da nessuno e non ci interessa la strumentalizzazione. Cioè, il discorso, il qualunque riferimento diretto e indiretto che purtroppo in questo momento storico viene al personaggio Berlusconi, a noi non ci riguarda. Cioè, non voglio essere strumentale, a noi quello che ci riguarda che l'attenzione sia, e quindi le battaglie che noi come centrodonna, ma che comunque le donne per noi dovrebbero fare in questa società, è quella di pensare ai problemi che anche tu hai citato, no? La salute, il posto di lavoro, il problema della casa. Guarda, fare l'elenco penso che sia per me quasi inutile, perché sono notorie, insomma, però veramente ce ne sono tante, perché anche battaglie di tipo sociale, non solo sulle donne, il problema dell'acqua, tutte battaglie su cui ci siamo anche impegnate, per esempio, no? Anche i provvedimenti, se posso citarli, securitari e restrittivi della libertà, col pretesto della sicurezza per le donne, che poi viene portato avanti sia dai governi di destra che di sinistra, sui quali fondano poi le loro politiche. Ma sicuramente, infatti, il discorso di non essere strumentalizzate, che in genere sembra meno importante sottolineare questo aspetto, perché dice, se uno non vuole non si fa solidarietà. No, ma che proprio l'inganno dell'impegno che hanno messo, sì, destra impegno, delle dichiarazioni che ha messo sia destra che sinistra, sono proprio falsi e ambigui, che la sicurezza, ma che è sicurezza? A parte che continuano a essere ammazzate dai compagni, dai mariti ufficiali, le donne, per cui non mi pare che sta sicurezza abbia funzionato. Ma oltretutto non è questa la sicurezza è ben altro, cioè non è questo che noi vogliamo, è ben altro, perché sono false strumentalizzazioni, cioè strumentalizzazioni sui falsi comportamenti. Sì, assolutamente. No, sei d'accordo? Quindi questo, per cui praticamente è veramente anche un modo di distogliere poi l'attenzione sul valore anche di certe battaglie che altre come noi fanno rispetto al problema della donna in generale, di tutte le problematiche. Quindi è vero, mi fa piacere anche che tu mi sottolini certe situazioni, per un motivo, perché è difficile veramente elencarle tutte, elencarle nell'ordine di importanza, se così, perché se può dire, perché poi in realtà per noi sono tutte importanti, esatto. No? Non è che una vale meno, una vale di più, sono legate anche alle battaglie, all'impegno che uno mette. Se fai una battaglia sull'acqua, è chiaro che in quel periodo sei sull'acqua, sulla tassa, cioè i momenti poi vengono scelti anche con una logica di opportunità rispetto al momento, no? Certo. E quindi non è che vengono scelti da parte nostra rispetto al valore maggiore o minore. Quando facciamo un problema sulla tazza, un'attenzione sulla tazza e cose del genere, è chiaro che ci poniamo un problema della salute, ma non è che vale meno di altre cose, perché per esempio il problema del lavoro, il problema della possibilità economica di essere talmente libere da poter scegliere pure tante volte anche di farsi una famiglia, perché anche questo diventa, di avere una casa, cioè sono tutti beni primari, cose essenziali, che non è cose paraboliche, è la vita, insomma. Sì, quindi in questo appello all'emancipazione femminile comunque non vengono toccati dei punti essenziali che invece sono portati avanti dalle donne che lavorano con le donne quotidianamente. Sì, sì, non solo vengono sottolineati, ma diciamo che sono meno proprio quasi neanche nominate, neanche toccate. E quindi mi sembra, insomma, un po'. Cioè non è che nell'appello ci stanno cose che dicono no, sono orribili qua là, ma sono quasi delle ovvietà, insomma. Sì. No? C'è anche un vademecum all'appello in cui si parla del concetto di dignità delle donne e dignità della famiglia, che è abbastanza allucinante. Ma guarda, io questo qui non l'ho letto, purtroppo, anche per questo volevo sentire le altre compagne, perché ho avuto modo, sai, io il computer e l'email sono un po' nemici, allora mi arrivano sempre in ritardo le comunicazioni, però vabbè, questo No, vabbè, loro specificano che la manifestazione non è fatta per giudicare altre donne o per mettere, per dividere le donne in buone o cattive, fondamentalmente. Ma io qui stavo dicendo, infatti, ma io qui stavo dicendo una cattiveria che in qualche modo spiega un po', voglio dire, è come se il prete parla della famiglia dal pulpito e poi si scopre che, fa, che è pedofilo, insomma, proprio estremizzando, voglio dire. Quindi non è che loro ci vanno a venire da... a parlare, cioè voglio dire, il discorso della dignità della cosa soddiscendono tutte dalla visione e dalla e dal comportamento anche da un punto di vista di attività politica rispetto a, alla donna, e quindi rispetto, è una questione estremamente culturale, e quindi ecco perché dicevo non è che poi ne puoi venire a insegnare, quando noi viviamo in una società che ti mostra sempre l'immagine di una donna che è tutt'altro che rispettosa e rispettata e piena di dignità, perché l'immagine è l'immagine anche in televisione, no? Sì. Culturale, la donna viene vista come merce, comunque sia, senza parlare poi di tutti gli scandali che sono, e mi dà anche fastidio proprio parlarne, perché sembra quasi che se fa del moralismo e non c'entra, il moralismo non c'entra niente, è una questione proprio ideologica completamente diversa. Quando noi parliamo di parità, di, parliamo anche di parità e di rispetto, di dignità, e la dignità è qualcosa che si vede da tutto, dall'immagine che si dà anche della donna. Io personalmente certe volte mi capita di guardare degli spettacoli in televisione in pieno inverno, siamo a 1, 2, 3 gradi, gli uomini cravatta, camicia, cappotto, e le donne tutte scollate, nude, che sono mezzo... Certo. Ma non, non è una questione di puritanesimo, è che lei vale con immagine lì in televisione in quanto sta spogliata. Ah. Cioè, perché questo? Anche io se Berlusconi cade... Te puoi mettere le minigonne, sta scollata, quello che ti pare, ma quando tu lo senti, non quando tu vali rispetto a quanto mostri. Questo è un messaggio che passa da tutti, capito? Non è che passa solamente nelle televisioni dove supponiamo che ci sia magari una visione politica sociale diversa, capito? Certo, comunque questa cosa del, del questo concetto che esprimevi del corpo delle donne come oggetto e merce di scambio, cioè sì, non è che è relativa agli ultimi tempi, sì, è comunque sì, da anni che c'è questa, questo attacco comunque all'immaginario, cioè non riesco neanche ad esprimermi ora nella maniera in cui vorrei, però non è che se cade Berlusconi in questo momento allora certe dinamiche... Bravissima, sono d'accordo, perché non a caso io ho fatto l'esempio della televisione e non ho fatto riferimento agli scandali che secondo me, vabbè, sono una cosa vergognosa, ok, perché sembra quasi come se qualcuno è scorretto, ma non tutta l'Italia è così, perché questo è poi... no, e perché il messaggio che passa proprio in generale, anche laddove si dovrebbe presupporre un atteggiamento diverso, poi è questo, l'immagine, l'immagine uno è quello che è, non è quello che appare, non so se ho reso l'idea, quello che deve apparire poi, insomma, non so se ho reso l'idea. Sì, sì, sì, hai reso perfettamente, noi ti ringraziamo per questo intervento, quindi ribadiamo che voi comunque sarete, cioè noi, voi sarete in piazza il 3.